Jeremy Starver è un avvocato di grande successo che, come lui ha tenuto a precisare diverse volte, viene da una famiglia working class, che è vero. È entrato in politica relativamente da poco, quantomeno in Parlamento, e durante la passata leadership di Jeremy Corbyn era uno dei front benchers, cioè faceva parte del governo, dello shadow government di Corbyn, quindi era parte, diciamo, della leadership del partito durante un'epoca, diciamo, più radicale, senza dubbio. Dopodiché, infatti, lui è stato eletto segretario del Labour dopo la sconfitta del 2019 di Corbyn, con un programma molto progressista, molto di sinistra, che veniva poi definito Corbynism without Corbyn, quindi Corbynismo senza Corbyn, che sembrava essere lui il problema e non il programma. E poi invece le cose sono cambiate drasticamente. Subito dopo l'elezione tutte le promesse fatte in campagna elettorale sono state cancellate, diciamo, ha cominciato una forte guerra intestina contro la sinistra di Corbyn. Corbyn non fa più parte del Labour Party e correrà come indipendente nel suo seggio di Islington North. E quindi chi è per concludere, chi è Keir Starmer? Se dobbiamo credere a quello che dice, è una persona che è passata da sinistra a destra nel giro di 5 anni in maniera molto radicale, diciamo. Nel suo curriculum, oltre a Corbyn, ha anche la cacciata dal Labour Party di Ken Loach, quindi insomma... di migliaia di iscritti, cioè, con tutti i limiti della leadership di Corbyn, c'era stato un grande risveglio dell'attivismo. Naturalmente è stato fatto un momentum, che è questa associazione, diciamo, di attivisti, ma in generale gli iscritti al Labour Party erano saliti molto durante l'epoca di Corbyn. In quest'epoca di Starmer molti sono stati cacciati. Basta aver difeso Corbyn, basta aver detto pubblicamente che l'antisemitismo all'interno del Labour Party era anche un costrutto ideologico, basta aver messo dei like sulle piattaforme sociali, ad interviste o a programmi televisivi assolutamente mainstream in cui magari si faceva qualche battuta sulla situazione a Gaza. E quindi sono tanti in realtà gli ex iscritti che sono stati cacciati dal Labour per, diciamo, purghe che non si vedevano da diversi decenni. Veniamo al programma elettorale di Starmer, che tu definisci ipermoderato. Evochi ovviamente la terza via di Tony Blair. Potremmo definirlo una sorta di restaurazione del blairismo? Sì, secondo me sì, nel senso, Labour in questi 14 anni da quando ha perso il governo è passato in diverse fasi, abbiamo detto appunto l'ultima era stata con Corbyn. Starmer sembra riguardare proprio al passato, a programmi moderati, appunto il programma che voi citavate, un programma elettorale senza nessun, diciamo, spunto di vero interesse per il futuro. In Gran Bretagna la situazione sociale è grave almeno quanto quella in Italia. I tagli dei governi conservatori hanno mietuto vittime nel vero senso della parola, durante questi 14 anni. C'è in particolare una politica particolarmente odiosa che blocca i benefit pubblici per le famiglie bisognose che hanno dopo il secondo figlio, quindi tutti quelli che hanno 3 o 4 figli dopo il secondo figlio smettono di ricevere sussidi. Il 25% dei bambini inglesi vivono in povertà, sono in povertà assoluta, sono malnutriti, più piccoli dei loro coetanei europei, hanno dei problemi dentali fortissimi, vengono estratti i denti ai bambini ancora in crescita proprio a causa della dieta molto scarsa. Ecco, davanti a una situazione secondo me così drammatica, questo è solo un esempio ma forse il più eclatante, nel programma di Starmer, dopo che all'inizio si era appunto nel suo programma per la leadership chiaramente detto che questa policy dei conservatori sarebbe stata cancellata, invece è sparito, diciamo, dal programma invece del Labour, dal manifesto del Labour con cui si presenta alle elezioni. Quindi niente nuovo welfare, grandi titubanze sul mantenimento del servizio sanitario pubblico, che era un altro dei cavalli di battaglia del Labour contro queste striscianti privatizzazioni che vanno avanti da anni con i conservatori. Quindi grande moderatismo in questo senso, secondo me, il Labour secondo me è stata una fase un pochino più complessa della storia britannica, che però sicuramente poi per come è finito è stato, si può, diciamo, riassumere su un moderatismo, il guardare a vincere al centro invece che sui lati, diciamo, dello schieramento politico, andando a rubare gli elettori altrui. Starmer sicuramente in questo senso sta cercando di recuperare i voti dei conservatori e con politiche moderate sta cercando di rassicurare la business community inglese, tant'è che ha avuto l'endorsement del Sun, cioè il giornale, diciamo, notoriamente più a destra della Gran Bretagna.